parla la professoressa Francesca Bocchi sulla città e l'organizzazione del territorio in età medievale. La città e l'organizzazione del territorio in età medievale. Un tema complesso, complicato dalle molteplici sfaccettature che implica. E credo sia lecito chiedersi quale deve essere l'approccio dello storico che voglia chiarire i rapporti fra la città e la campagna, in atto nelle amministrazioni pubbliche più attente e consapevoli. Deve individuare i meccanismi sociali, economici e politici con le loro dinamiche, per mezzo dei quali la città ha operato la conquista del contado e vi ha imposto la sua egemonia, oppure deve conoscere gli strumenti tecnici e le istituzioni e istituzionali del suo dominio, ovvero deve scoprire come si è consumato lo scontro di culture fra la civiltà urbana e quella contadina? La prospettiva di lavoro si presenta oltremodo stimolante per la visione d'insieme che potrebbe scaturire argomentando su una pluralità di temi. Però tale strada, se non si vuole essere superficiali, è impercorribile nel breve momento di un seminario come è questo. Bisogna individuare uno dei temi, fare una scelta necessaria, ancorché imbarazzante, dal momento che privilegiare uno degli argomenti significa privarsi dell'apporto prezioso e chiarificatore degli altri. Del resto, che questa debba essere l'impostazione da dare al tema non sembra dubitabile, essendo il frutto della meditazione degli storici della scuola economico-giuridica, i quali fra 8 e 900 avevano già avviato gli studi a considerare la conquista del territorio e la sua gestione politica da parte della città come la conseguenza dell'essere la società urbana strutturata in un certo modo per le sue forme di produzione, con i suoi contrasti fra i gruppi sociali che da questa condizione derivavano. Già nel 1929, Arturo Palmieri, introducendo i lettori alle sue ricerche sulla montagna bolognese, aveva sottolineato come la storia di quel territorio fosse, citazione, il risultato dei contrasti economici e politici fra i dominati e i dominatori, della campagna di conquista combattuta dal Comune di Bologna per l'assoggettamento del contado, della nuova classe sociale che ebbe il sopravvento ed infine delle magistrature create dalla città per il governo dei rustici. Fin da queste brevi proposizioni si nota in Palmieri, nell'ambito del suo liberalismo sensibile alle dinamiche sociali, alle lotte dei popoli e delle classi, una capacità di individuare l'interdipendenza fra città e territorio, non solo da un punto di vista strettamente legato ai rifornimenti annonari, peraltro di non secondaria importanza, ma anche per buona parte di quelle tematiche che sarebbero divenute patrimonio della riflessione storiografica dei 50 anni successivi. Gli studi sulla montagna bolognese nel Medioevo erano maturati dagli orientamenti di un trentennio di valorose, ormai classiche, ma ancor valide ricerche, condotte dallo stesso Palmieri, da Romolo Caggese, da Pietro Vaccari, da Giampiero Bognetti, da Giovanni De Vergottini, di volta in volta puntualizzanti le origini e lo sviluppo dei comuni rurali, la struttura giuridica, politica e amministrativa del contado, il rapporto di comitatinanza fra città e territorio dal punto di vista ideologico, istituzionale ed economico e per lo più dirette ad individuare un orizzonte topografico circoscritto al fine di approfondire l'analisi, di cui è un esempio nitidissimo il primo volume del ponderoso lavoro di Pietro Torelli su Mantova, che è del 1930. Queste opere, come ho detto, sono ormai dei classici. Nel senso che ogni studioso, sia che si occupi di storia della città, sia che si occupi di storia dell'agricoltura e del territorio in generale, non può prescindere dalla conoscenza di quelle riflessioni per andare avanti nell'indagine, anche per la loro capacità di dare suggestioni per nuove tematiche. In effetti, negli ultimi 50 anni, gli studi sui problemi dei rapporti città-territorio sono tanto numerosi che nell'economia del nostro tempo non è possibile citarli. Basterà, per le necessità della contingenza, solo accennare ai nuovi filoni di ricerca che sono stati individuati. Innanzitutto, il maggior numero di interessi e la conseguente ampia produzione scientifica è relativa alla ricostruzione della storia politica, sociale ed economica della città all'epoca dell'autonomia, soprattutto diretta ad individuare la struttura sociale urbana e l'egemonia che vi hanno esercitato nobili, magnati, borghesi, popolani, attraverso lo studio delle istituzioni o a chiarire il ruolo delle corporazioni nell'ambito produttivo e politico. In tempi abbastanza recenti, anche alla storia dell'agricoltura sono stati dedicati non pochi studi, impegnati a determinare le tecniche di produzione, il paesaggio agrario e la sua evoluzione, la struttura della proprietà, la condizione della popolazione rurale, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista sociale. Si tratta di studi pregevoli e di grande importanza, che dovevano fornire una certa quantità di notizie del tutto ignote prima d'allora e ricostruire delle situazioni mai esplorate prima. Non sempre, quindi, hanno potuto avanzare l'indagine e la riflessione alla dialettica città-contado, tanto che sovente sono rimasti limitati o alla sfera urbana o a quella territoriale, senza riuscire ad intrecciare le due storie. La necessità di verificare le dinamiche dei rapporti nell'ambito territoriale, però, non è mai venuta meno. Anzi, si è fatta sempre più pressante anche per la vivacità dell'attuale dibattito politico e scientifico che accompagna le scelte di politica territoriale, delle conurbazioni e delle grandi aree metropolitane, dove lo squilibrio fra città e campagna è giunto ad un punto di lacerazione tale da richiedere interventi programmati sull'intero territorio. In virtù di quella capacità tipica dello storico di farsi interprete delle esigenze del suo tempo, fornendo al dibattito culturale l'apporto della conoscenza del passato per una più corretta e consapevole considerazione del presente, gli interessi sul tema della dialettica città-campagna si sono moltiplicati, tanto che in anni recentissimi sono nate due riviste: Storia Urbana, orientata a fissare l'attenzione sulle trasformazioni della città e del territorio nell'età moderna, e per il Medioevo, Storia della città, che porta il sottotitolo programmatico di Rivista Internazionale di Storia Urbana e Territoriale, e svolge un'attività scientifica tesa a mediare le metodologie di studiosi provenienti da esperienze diverse, gli storici tout court e gli storici dell'urbanistica, e a raccogliere le tendenze storiografiche attualmente più rilevanti che mostrano, come dice il direttore della rivista nel primo numero dell'editoriale, nell'editoriale del primo numero, mostrano convergere sul tema città e territorio, quasi dovesse farsene in prospettiva lo sfondo e addirittura il sostegno di un nuovo modo di concepire la storia. Questo però non è che uno dei risultati e degli interessi storiografici dei medievalisti. Accanto ai grossi filoni a cui ho accennato prima, la produzione storiografica dell'ultimo mezzo secolo ne ha fatto fiorire altri, che hanno messo a fuoco in maniera più precisa la tematica dei rapporti città-territorio, soprattutto in connessione con le strutture economico-sociali. E seguendo il filo che unisce queste tematiche, che cercherò di fornire l'idea che io mi sono costruita di come la città abbia organizzato il suo contado, privilegiando di questa organizzazione i rapporti economici e le dinamiche sociali, e di conseguenza l'azione politica piuttosto che l'aspetto amministrativo, che a sua volta è un'ulteriore interessante conseguenza e applicazione delle scelte effettuate in campo politico. Il primo passo che vorrei compiere riguarda anche il primo passo che la città ha compiuto fuori dalle proprie mura verso il contado, aggregandosi le zone limitrofe, cioè il suburbio. Dapprima si è trattato di una presa di possesso patrimoniale. Da qualcuno si crede che già in età romana nel suburbio vi fossero situati dei beni in possesso dei municipi, ma le fonti superstiti non sono in grado di determinare con precisione questo punto. Quello che è certo è che dopo la conquista longobarda, nei pressi delle mura, si trovavano dei beni comuni costituiti soprattutto da pascoli e incolti, dove gli esercitali traevano l'alimentazione dei cavalli con i quali prestavano il loro servizio. In prossimità della città furono istituite delle curtes ducali o regie, vere e proprie aziende agricole gestite dall'autorità locale o da agenti del sovrano, che avevano lo scopo di provvedere al mantenimento della corte e delle amministrazioni pubbliche periferiche. Beni pubblici, quindi, della comunità urbana o del fisco, accanto a beni privati di laici ed ecclesiastici, caratterizzavano il suburbio all'epoca del Regno Longobardo. Quando in età franca i funzionari pubblici gestirono non solo i beni fiscali, ma anche quelli delle comunità urbane, incontrarono sempre delle vivacissime proteste e reazioni da parte dei cittadini, come testimoniato dal Placito di Rigiana in Istria dell'804, quando gli abitanti della regione si lamentarono perché il duca Giovanni, fra le altre cose, aveva fiscalizzato i beni urbani e suburbani dell'odierna città di Novigrad, sui quali lavoravano più di 200 coloni. In quell'occasione il duca Giovanni giustificò il suo operato dicendo che egli era convinto che fossero dei beni fiscali. Si può trattare qua della malafede di un funzionario che aveva anche utilizzato gli oneri personali imposti al popolo per costruire le case dei suoi figli. Ma questo episodio è anche la spia di come si deve essere creata la graduale incapacità di riconoscere l'originaria natura dei possessi, in conseguenza del fatto che l'amministrazione era concentrata nella medesima autorità e questa era estranea all'ambiente urbano e locale. Purtuttavia, la frequentazione da parte della popolazione cittadina degli incolti suburbani, boschi e pascoli per esempio, era una necessità che non venne mai meno, nemmeno quando in molte città il potere pubblico passò nelle mani dei vescovi, accompagnato anche dalla donazione di beni fiscali alle chiese episcopali, come accadde per esempio a Parma e a Firenze, dove le antiche curtes regie divennero degli importanti centri del potere vescovile. Già a questo punto si nota un intrico abbastanza complicato relativo alla natura di molte terre suburbane. C'erano dei beni pubblici e dei beni un tempo fiscali che, essendo stati donati alla mensa vescovile, erano divenuti per così dire privati, ma in quanto possesso di un'autorità a cui erano stati conferiti anche poteri pubblici, la loro condizione di beni privati era difficile da recepire. Ma la vera ed effettiva presa di possesso del suburbio da parte dell'autorità pubblica cittadina fu un passo ulteriore. Come è noto, la disgregazione della funzione statuale e la dispersione del patrimonio pubblico aumentarono all'epoca dei re italici, i quali, incapaci di un'attività legislativa coerente sull'intero territorio del regno, svolsero la loro azione di governo elargendo privilegi ai loro sostenitori. Ne beneficiarono soprattutto i vescovi, a cui furono rinnovate le concessioni immunitarie sui beni delle loro chiese, se già le avevano avute dai sovrani carolingi, o furono loro conferite per la prima volta. Inoltre ottennero la donazione di beni fiscali, esenzione dai dazi, assegnazione di proventi che dovevano essere esclusivo diritto dello Stato su prati, strade, fiume, porti, zecche e la giurisdizione su una breve fascia, inizialmente di un miglio, attorno alla città. Di questa situazione si ha notizia già dal diploma dell'891 dato da Guido al vescovo Leodoino di Modena, suo grande sostenitore nella lotta per il conseguimento della corona imperiale. Al presule modenese furono confermati i precedenti privilegi con l'aggiunta del possesso dell'antica zona urbana modenese, assai più ampia di quella abitata all'epoca del diploma, dei diritti sulle vie pubbliche, sulle porte, sugli attracchi portuali, il diritto di scavare fossati, costruire mura, porte e mulini sulla superficie del raggio di un miglio dalla chiesa cattedrale. Furono quindi ampie concessioni che permisero al vescovo di Modena di esercitare dei veri e propri poteri pubblici, anche fuori dalla città, entro i confini indicati, poteri che a poco o poco ottennero anche i presuli di altre diocesi e che ampliarono sempre più fino a raggiungere a Lodi nel 981 le 7 miglia dal circuito delle mura. Da questa nuova condizione giurisdizionale, che riguardava il suburbio, dove erano collocati i più importanti servizi della città e i beni comuni vitali, si pensi ai mulini e ad altre cose simili, e soprattutto ai prati, ai boschi, da cui si traeva la materia prima per l'edilizia, non tardarono a nascere conflitti di competenza fra il vescovo, che si riteneva il diretto gestore di quei beni e pertanto imponeva dei censi a coloro che ne fruivano, e gli abitanti delle città, che consideravano se stessi gli unici detentori di tali secolari diritti. È il caso di Cremona, dove fra il IX e l'XI secolo i negoziatores portarono fino davanti ai sovrani le loro rivendicazioni nei confronti dei vescovi, che esigevano da loro i diritti di attracco al porto delle città, come se fossero stati degli stranieri. Mancano le fonti che diano indicazioni precise sull'epoca a cui si possa far risalire l'organizzazione amministrativa del territorio suburbano, ma credo che si dovette modellare sull'assetto ecclesiastico vicinale. Il trovarsi fra i vicini nella frequentazione di una medesima chiesa, che nel suburbio era il solo centro di aggregazione sociale esistente, e lo sarebbe stato ancora per molti secoli, l'avere in essa il punto di riferimento a cui far capo in caso di necessità, la possibilità di prendere contatto con quelle gerarchie ecclesiastiche che potevano fungere da tramite con l'autorità pubblica, erano tutti motivi di grande coesione tra vicini, che peraltro si trovavano con gli abitanti della città in occasione dei mercati e delle grandi celebrazioni liturgiche, nonché per l'amministrazione dei sacramenti, nella pieve urbana. La forza aggregante all'interno delle vicinie fu tanto solida che il loro assetto territoriale non subì trasformazioni nel tempo, anche perché, essendo ciascuna chiesa parrocchiale la destinataria delle decime di un certo ambito topografico, ne controllò sempre con molta attenzione l'esazione, senza permettere spostamenti della linea di confine. Solo fonti tarde consentono di rilevare topograficamente queste circoscrizioni, e si può notare, come per primo ha fatto Angelo Masti per Bergamo molti anni fa, che i confini di molte vicinie non erano condizionati dalle mura della città, ma comprendevano zone situate all'interno e all'esterno di esse, segno che all'epoca della loro formazione le mura non erano ancora state costruite e che la loro costruzione non ne ha turbato l'assetto. Nel secolo X ci furono anche le grandi incursioni ungare e musulmane. Ed è anche il momento relativo allo spostamento di numerose famiglie contadine all'interno delle città, in cui le mura offrivano protezione laddove erano ben solide, oppure in cui si provvide in una collaborazione effettiva fra vescovo, cittadini e inurbati al loro restauro e alla costruzione. Questi spostamenti di manodopera addetta all'agricoltura contribuirono ad incrinare un certo equilibrio economico che nei secoli precedenti si era instaurato fra la città e il suo territorio. E non fu che l'inizio di successivi più massicci spostamenti di elementi della popolazione rurale in cerca di miglior fortuna, come diceva Gino Luzzatto, durante i secoli seguenti, spostamenti che finirono col minare il sistema economico feudale basato, tra l'altro, sull'inamovibilità dei cosiddetti servi della gleba, del loro essere un tutto unico con il fondo che lavoravano. Ma quel sistema economico, guidato in generale dal principio della sussistenza, cioè dall'equivalenza fra produzione agricola e consumo dei residenti, fulminato anche e soprattutto dal fatto che, in conseguenza dello sviluppo economico, dalle città giunse una richiesta più alta di rifornimenti annonari, che la campagna poteva recepire solo se convertiva il suo sistema produttivo. A tale richiesta seppe rispondere positivamente e con prontezza la piccola proprietà a conduzione diretta, in grado di ammodernarsi anche tecnicamente. Però, Perché la risposta fosse adeguata alle sempre maggiori richieste del mercato urbano, bisognava che tutto il sistema produttivo delle campagne vi si adeguasse, cosa a cui contrastava il lavoro servile con le sue prestazioni d'opera sui fondi domenicali, che distraevano uomini e animali, a cui si aggiunse anche il disagio e il malessere dei lavoratori della terra che si sentivano vittime di abusi e strumenti di un lavoro poco produttivo. Le città, in virtù di un'espansione economica che andava manifestando i suoi segni positivi nella ripresa dei commerci a medio e lungo raggio, furono senza dubbio un forte richiamo non solo per i servi fuggitivi, ma soprattutto per i piccoli possessori del contado, i quali avevano capitalizzato la rendita della loro terra e si inurbarono mantenendone però il possesso. Confluirono quindi in quello che era il popolo delle città, cioè quel ceto mercantile rinvigorito da operatori del settore terziario che erano riusciti ad investire parte dei loro guadagni in proprietà immobiliari, ceto a cui i rustici inurbati potevano essere accolti a buon diritto avendo come base comune la proprietà terriera. Fra il popolo, animatore della rinnovata economia urbana, e la nobiltà, costituita dall'apparato dei vassalli vescovili, gestori di un'economia che, seppur ancora molto forte, cominciava a dar segni di stanchezza, i quali avevano i loro centri di potere nella campagna, ma politicamente erano inseriti nel mondo urbano, non tardarono a manifestarsi delle tensioni sociali che sfociarono, per esempio, a Milano, alla metà del secolo XI, in lotte furibonde, il cui esito fu, in quell'occasione, la ricomposizione sociale. Quelle lotte, però, segnarono un importante episodio nel processo di sostituzione dei gruppi egemoni nella gestione del potere nelle città durante la radicale trasformazione che avrebbe portato all'autonomia politica, con ritmi e comportamenti differenziati dalle diverse sfumature sociali dei singoli luoghi. Infatti, in molte città dell'Italia centro-settentrionale si giunse nella seconda metà del secolo XI a lacerazioni sociali abbastanza traumatiche. Però, passato il momento della lotta più dura, superate le crisi amministrative e le divergenze di carattere religioso dovute ad una maniera nuova di intendere la vita e l'attività delle gerarchie ecclesiastiche e allo scontro tra Papa e Imperatore per il controllo delle investiture, nelle città si giunse ad una generale pacificazione, favorita anche da quella grande distrazione politica che fu la prima crociata, la quale, orientando verso un polo del tutto nuovo le coscienze, spezzò la tensione politica dei conflitti sociali urbani. Le parti prima in lotta si accordarono, trovando nel possesso della terra la base comune di appartenenza sociale e conseguendo il risultato di costituire una forza politica consapevole di rappresentare l'intera collettività cittadina, capace di togliere gradualmente ai vescovi l'amministrazione pubblica. Si formò così un'aristocrazia composta dagli elementi appartenenti alle famiglie mercantili e a quelle nobiliari, attorno alle quali più solidale era stato il consenso, da cui vennero reclutati i consoli della prima età comunale. A questo punto le nuove amministrazioni urbane hanno cominciato a guardare al di là del suburbio, ai cui abitanti avevano esteso quasi tutti i diritti dei cittadini, per assicurarsi il controllo delle vie di comunicazione che garantissero sicurezza e libertà nei collegamenti e in cerca di quei mezzi che potessero sostenere il nuovo tipo di economia che si era instaurato all'interno delle città al fine di non subire la dipendenza economica da altre entità statuali. Si trattava di riuscire a controllare direttamente un territorio la cui economia fosse complementare a quella urbana, in particolare che potesse garantire quei rifornimenti annonari che i pur considerevoli beni fondiarie di molte famiglie cittadine non erano sufficienti a fornire per l'intera comunità. Tanto più che nelle città si era registrato un incremento demografico ragguardevole per la migliorata qualità della vita e per l'inurbamento dalle campagne, dalle quali, per converso, si verificava una continua emorragia di uomini che ben presto fu necessario controllare, come dirò fra poco. Al di là del suburbio, per la città, che la città, come ho detto, aveva integrato nel suo sistema economico e politico già da qualche secolo, il panorama era assai vario. C'erano i piccoli proprietari che conducevano direttamente i loro fondi, aumentati di numero per il frazionamento del grande possesso. C'era una struttura feudale ancora piuttosto robusta, con la quale erano gestite le grandi proprietà laiche ed ecclesiastiche. In certe zone erano sopravvissute anche delle vigorose signorie territoriali. In altre si erano formate delle comunità che si resero autonome, i comuni rurali, approfittando della generale incapacità del potere pubblico a gestire le circoscrizioni amministrative in cui erano situate e prima che le città maggiori fossero in grado di attuare la conquista del contado. Verso questo orizzonte i comuni urbani hanno rivolto la loro attenzione, un orizzonte che non era sconfinato però, ma aveva già una certa struttura delimitata dai confini della diocesi, alla quale soprintendeva il vescovo che aveva sede in ambiente urbano. Gli interessi fuori dalle mura, una certa componente della vita cittadina, li aveva quindi da tempo immemorabile. È opinione abbastanza diffusa che la città si sia prefissa la ricomposizione e l'annessione del contado in generale entro i limiti territoriali della diocesi. Ma non credo che questa opinione sia del tutto accettabile, anche se questi ne furono in effetti gli esiti. Innanzitutto, gli esiti si sono valutati solo a posteriori e non è detto che quello fosse l'obiettivo di partenza. L'obiettivo, a mio parere, era quello di conquistare un territorio da controllare direttamente per quelle necessità politiche, militari ed economiche a cui ho accennato. Che poi i comuni egemoni, in generale, non abbiano superato nella conquista del contado i confini della diocesi, dipese dal fatto che al di là di quei confini andavano a scontrarsi con le volontà dei comuni egemoni confinanti, che erano analoghe alle loro, fin tanto che il rapporto di forza militare fu in equilibrio. Quando tale equilibrio si ruppe, i tentativi di andare oltre i confini della diocesi si moltiplicarono, come per esempio fece Bologna, che alla metà del XII secolo aveva già sconfitto Imola, sede di diocesi, e nel 200 combatté con Modena per la conquista del Frignano e tentò l'espansione in Romagna, quindi ben fuori dal suo ambito diocesano. La conquista del contado dovette presentare anche dei non facili problemi di mantenimento degli equilibri politici all'interno del gruppo dominante in città. Dal momento che nel territorio vi erano forti centri di potere locale controllati dai medesimi elementi che facevano parte della leadership cittadina. Si stava attraversando il difficile e peraltro non breve momento della coesistenza di due diversi sistemi economici, quello mercantile e cosiddetto paleocapitalistico da una parte e quello feudale, fra virgolette, dall'altra. Per superare l'impasse, in certi luoghi l'amministrazione cittadina assunse i modelli di comportamento del feudalesimo, in altri scaricò sui residenti gli oneri maggiori derivanti dall'annessione di terre sottoposte a vincoli feudali, mantenendo intatti i privilegi del signore locale. In altri ancora, dove non erano presenti condizionamenti connessi a signorie locali, specialmente in presenza dei comuni rurali autonomi, che avevano raggiunto una certa autonomia, la conquista e l'annessione furono meno problematiche e più facili. Una volta portata a termine la conquista del contado, che peraltro non sempre ha significato un effettivo assoggettamento di ogni sua parte, perdurando dei forti centri di potere laici ed ecclesiastici che riuscirono a sfuggire al controllo del comune urbano, si trattò di gestirlo in maniera tale che rispondesse a quelle necessità economiche a cui si è accennato, e quindi si dovette affrontare un ampio ventaglio di problemi che andavano dal controllo militare del territorio per difenderlo dalle mire di conquista delle città confinanti, alla capacità di ricavarne i rifornimenti annonari, dal controllo della sua struttura sociale e della sua entità demografica, alla necessità di trarne profitto attraverso l'imposizione diretta. Come risolse il comune urbano questi problemi? non certo una volta per tutte, dato il momento di grandi trasformazioni sociali e politiche. I provvedimenti dipesero dai ritmi e dai modi dell'evoluzione che si attuò all'interno della città. Man mano che nell'ambito del gruppo dirigente acquistava sempre più spazio la componente mercantile e imprenditoriale, quella aristocratica veniva sempre più emarginata dalla vita pubblica, fin tanto che ne fu addirittura espulsa con la legislazione antimagnatizia. In termini economici, questa evoluzione equivalse all'acquisizione di un maggior peso del sistema economico basato sullo scambio rispetto a quello delle sussistenze. Anche nelle campagne si sentirono gli effetti di tale processo, poiché si nota non solo una graduale sostituzione della proprietà fondiaria cittadina a quella nobiliare, ma anche perché la politica urbana diresse la sua attenzione alle condizioni di vita delle popolazioni rurali, notoriamente vessate da nobili e potenti che le avevano ridotte all'indigenza, non tanto per scopi umanitari, quanto per garantirsi la loro capacità di produrre i rifornimenti annonari per il comune urbano. Se l'esodo dalle campagne per un certo tempo era stato ben visto dai governi cittadini, rinvigorendosi l'economia urbana col confluire di abbondante e valida manodopera, che consentiva una maggiore produzione, ad un certo punto cominciò a preoccupare, perché restavano sguarnite le campagne. Si trattava quindi di esercitare un severo controllo sulla manodopera rurale, per un verso per frenarne l'esodo dai campi, quando poteva comprometterne la produttività, e per un altro per metterla in grado di fornire tale produzione. La strada che i governi cittadini percorsero per attuare questa politica fu quella di promuovere per la popolazione rurale delle migliori condizioni di vita, affinché il legame con la terra fosse meno coercitivo e insopportabile, ancorché necessario. Il contado era poi un serbatoio per il prelievo fiscale, attuato attraverso l'imposizione diretta, strumento, quello dell'imposta, con il quale l'amministrazione cittadina si procurava del denaro fresco che veniva investito, fra l'altro, in opere pubbliche. E l'epoca, il XII e il XIII secolo, delle grandi imprese edilizie, quali la costruzione dei palazzi comunali e delle mura, dello scavo di canali navigabili e anche della costruzione di una diga, per esempio a Mantova, ma anche una diga sul lago, ma anche nelle guerre di espansione e nel controllo militare del territorio, con il rafforzamento dei fortilizi già esistenti, con la costruzione di nuovi e con la fondazione di borghi franchi. L'integrità economica e fiscale della comunità del contado, diceva Pietro Vaccari nel 1926, l'integrità economica e fiscale della comunità del contado è una necessità per il comune cittadino che sulla prosperità e sulla disciplina delle forze del contado basa in parte notevole la sua potenza politica. Ed infatti le città, ciascuna secondo le proprie esigenze, presero delle misure per salvaguardare quell'integrità di uomini e di mezzi, scegliendo delle linee di intervento che coprissero tutto lo spettro delle necessità politiche. Credo però che sarebbe un errore considerare che ogni singolo provvedimento adottato dai comuni egemoni fosse diretto a risolvere uno solo dei problemi, come assai spesso ha fatto anche la nostra storiografia più attenta. L'attuazione della politica cittadina poteva passare anche tutta insieme o in gran parte attraverso un solo intervento. E allora come ora, quanto più ampio il ventaglio dei problemi coperto da un intervento, tanto più il provvedimento è politicamente valido, anche se non sempre le intenzioni che lo guidano sono in esso enunciate. Ho accennato poco fa alla fondazione dei borghi franchi, che è avvenuta fra la seconda metà del XII e la fine del XIII secolo. Ne ho accennato in relazione alla difesa del territorio, ma non è stato solo il controllo di una strada o di un corso d'acqua o di uno sbocco di una valle, oppure la guardia ai confini, il motivo della fondazione. La concessione a vario titolo di lotti all'interno del borgo per la costruzione della casa o all'esterno per le colture non era solo una misura che consentiva la sopravvivenza dei futuri abitanti, ma era una maniera per attirarli e trattenerli sulla terra che i contadini sempre più volentieri abbandonavano, così come erano accattivanti le concessioni di franchigie e di altre immunità. La scelta di intervenire sul territorio con la fondazione di nuovi centri abitati fu il segno di una maturità politica consapevole di attuare un intervento capace di rispondere alle principali esigenze della città nei confronti della campagna, poiché avrebbe pianificato, se avesse avuto la risposta positiva della popolazione, cosa che peraltro non sempre avvenne, sia la necessità di difendere il territorio, sia quella di mantenere i rustici sulla terra, sia ancora quella di garantire la produttività agricola del luogo. Avrebbe insomma aumentato il patrimonio demografico della campagna e con esso l'approvvigionamento annonario e il prelievo fiscale, il tutto in condizioni sociali favorevoli, poiché non era consentito alcun rapporto servile, e quindi, allo stesso tempo, non favoriva il progredire del sistema economico di tipo feudale, anzi, gli procurava una battuta d'arresto e un regresso in quel settore. Un esempio chiaro di questo tipo di intervento è offerto dal Comune di Verona, che nella seconda metà del XII secolo mise in atto delle iniziative su terreni poco produttivi e paludosi del suo contado. Il primo è quello relativo alla fondazione di Villafranca nel 1184-1186, che ebbe anche lo scopo di difendere il territorio da eventuali attacchi dei Mantovani. Fondazione preceduta dalla sistemazione agraria del territorio. Il terreno era situato nella Campania Major, una zona suburbana improduttiva che era stata già integrata nel suburbio della città. Fu ordinato lo scavo di opere di canalizzazione fra la collina e la pianura. Furono suddivisi 2.864 campi, il campo è una misura, pari a 860 ettari, fra 90 famiglie alle quali furono assegnati 9,6 ettari ciascuno, cioè 32 campi, per le colture più uno per la casa. In comune, tutte queste famiglie ebbero alcune centinaia di campi a bosco e a pascolo. Coloro che vi andavano ad abitare erano esonerati dagli oneri reali e personali imposti dal comune urbano alle popolazioni rurali ed equiparati ai cittadini, con la sola aggiunta del pagamento di un canone annuale per ogni famiglia. All'equiparazione di fronte all'imposta diretta di questa popolazione rurale a quella cittadina, forse non era estraneo il fatto che la zona faceva parte del suburbio della città e pertanto inclusa nell'area in cui gli abitanti già godevano di molti dei diritti della città. Tuttavia, la concessione della condizione urbana ad un borgo rurale non era un fatto abituale, anche se Verona lo applicò ampiamente. In generale, le città si guardavano bene dal concedere tali condizioni, poiché comportavano per le finanze cittadine la perdita di quella parte della contribuzione diretta che erano gli oneri misti e personali, cioè le prestazioni d'opera degli uomini e degli animali, cioè la manodopera e i mezzi di trasporto dei materiali per la manutenzione delle strade, dei canali, degli argini, delle rive dei fiumi, del contado. Inoltre, gli oneri reali, cioè la contribuzione diretta in denaro, non era uguale su tutto il territorio, ma era diversa se toccava la città o se toccava il contado, tanto che i cittadini e i contadini erano, in generale, iscritti in ruoli separati. Se il comune urbano a Verona prendeva una decisione di questo genere, evidentemente doveva vederne la produttività in altri settori. Anche in questa occasione la necessità di mantenere gli uomini sulla terra perché non scarseggiassero i rifornimenti suggeriva di presentare un allettamento che fosse particolarmente accattivante, come quello di offrire la condizione fiscale urbana, sebbene comportasse per il comune la rinuncia a certe entrate. Inoltre, esonerare la popolazione rurale dagli oneri personali significava non distrarre né gli uomini né gli animali dal lavoro agricolo, senza contare che il lavoro libero era maggiormente produttivo sia in rapporto alla quantità di beni da offrire al consumo del mercato cittadino sia in rapporto alla rendita fondiaria, produttività tanto più necessaria in quanto le terre avevano bisogno di migliorie. C'è anche da considerare che l'immissione di 90 famiglie su una superficie di 860 ettari poteva avere per conseguenza un rapido incremento demografico entro un tempo non troppo lungo. La politica di intervento sul territorio il Comune di Verona la attuò anche con un altro importante provvedimento, quale fu, prima dello scadere del XII secolo, la bonifica e la lottizzazione della Palus Comunis Verone. Si trattava di una superficie di 1200 ettari, situata a sud-est di Verona, che fu distribuita a 374 consorti, tutti cittadini veronesi, ai quali fu imposta la decima e un canone annuo. Il comune urbano si impegnava a provvedere alla manutenzione dei canali di scolo e delle strade che aveva fatto preventivamente costruire, dal momento che esonerava gli assegnatari dalle prestazioni d'opera e più generalmente dagli oneri dei rustici, equiparandoli ai cittadini. Fatto questo che rientra nella linea politica del comune veronese nei confronti del territorio precedentemente valutata. Però, essendo i consorti cittadini veronesi inseriti e attivi fra l'altro nella politica urbana e quindi non impegnati direttamente nell'opera di miglioramento e di messa a coltura dei fondi, l'esonero dagli oneri a Rusticalia non era diretto a loro, che in quanto cives avrebbero in ogni caso goduto di tale condizione, ma andava a beneficio dei coloni che furono immessi su quei fondi, i quali potevano utilizzare tutto il potenziale umano e la forza motrice degli animali a pieno tempo per rendere produttivi i terreni senza esserne distolti dalle prestazioni d'opera. L'operazione, anche in questo caso, oltre a rinforzare la proprietà cittadina, perché dopo breve tempo hanno venduto poi direttamente i fondi, portava una salutare iniezione di nuove famiglie di coloni, delle quali sfortunatamente non si conosce la provenienza, al patrimonio demografico del contado e incentivava la produzione agricola, essendo le condizioni sociali dei coloni favorevoli ad un loro impegno attivo e continuato. Anche in questo caso, quindi, il provvedimento non era solo diretto a rimediare al fatto che la civitas veronensium blavarum copia plurimum indigeret, come affermava nell'arenga il notaio che nel 1199 ha redatto l'importante documento dell'assegnazione dei lotti, ma era diretto a contribuire alla soluzione anche di altri gravi problemi che erano connessi con l'approvvigionamento annonario. Un altro degli aspetti dell'attività organizzativa della città nei confronti del contado è quello relativo agli interventi sulla condizione sociale della popolazione rurale per favorire la diffusione della conduzione diretta o perlomeno quella di contratti che consentissero di migliorare la qualità della vita per migliorare di conseguenza la qualità e la quantità della produzione, come più volte ho detto. Quando le città hanno conquistato il contado, in quale condizione sociale si trovavano i lavoratori delle campagne? La gamma era abbastanza varia. Andavano dai piccoli proprietari che conducevano direttamente i loro fondi, nei confronti dei quali i comuni urbani non intervennero se non per ricavarne l'imposta diretta, ai livellari, ai servi delle grandi proprietà laiche ed ecclesiastiche, passando attraverso altre condizioni tutte caratterizzate dal legame indissolubile con la terra su cui risiedevano e lavoravano. Le vessazioni e lo sfruttamento che proprietari e vassalli facevano dei servi non hanno bisogno di essere richiamati all'attenzione di chi mi ascolta perché sono ben noti. Quello che più interessa ora è valutare l'azione politica della città in questo settore e credo che per farlo sia necessario dare qualche esempio tenendo conto ancora una volta che le disposizioni non ebbero mai un solo obiettivo e non sempre quello enunciato era quello reale. La maniera più diretta per migliorare la condizione sociale di un servo era quello di dargli la libertà. Infatti fu questa la strada che percorsero le città. Alcune in maniera indiretta, predisponendo una legislazione che favoriva gli atti privati di affrancazione, altre promuovendo liberazioni collettive con atti pubblici di governo. Si trattava evidentemente di una diversificazione nelle scelte dovuta a quei rapporti interni al gruppo egemone in città a cui ho precedentemente accennato. E sempre la necessità di salvaguardare gli interessi di chi prevaleva o di chi si avviava a prevalere a determinare il tipo di intervento. Per esempio a Siena, dove le famiglie dei ricchi mercanti si erano sostituite nella grande proprietà fondiaria alla nobiltà feudale, prevalendo politicamente anche all'interno con l'esclusione dei magnati dalla vita pubblica, liberazioni collettive non ne furono mai ordinate, perché i loro interessi nei confronti della campagna non erano molto diversi da quelli della nobiltà. Purtuttavia, l'emancipazione dei rustici era economicamente indilazionabile e il flusso verso la città inarrestabile. Si preferì allora consentire l'esodo e il conseguimento di migliori condizioni sociali, ma in maniera che solo in minima misura compromettesse la forza lavoro della campagna, consentendo che un solo uomo adulto ogni quattro, stanziati su un'azienda, in possesso di un cittadino, la cittadinanza senese, dopo aver fatto residenza in città per 10 anni. Nonostante la forma indiretta e non eccessivamente favorevole ai rustici, questo meccanismo di emancipazione dei servi fu usato anche in funzione antimagnatizia, perché quando fu necessario predisporre un dispositivo particolarmente severo e coercitivo nei confronti di quei signori che non volevano andare a mettersi sotto il controllo del comune prendendo residenza in città, si consentì che 3 su 4 dei loro villani potessero inurbarsi. Altre città invece preferivano scegliere la via diretta della liberazione collettiva dei servi, come fece Bologna nel 1257 con la legge Paradisus, nella quale si richiamava l'originaria libertà di ogni uomo, in considerazione della quale nobilis civitas bononia, quae semper pro libertate pugnavit, manometteva i servi di tutto il contado. Il 3 giugno di quell'anno, infatti, riscattava 5.855 servi, pagando ai 379 proprietari 10 lire per gli adulti e 8 lire per i minori di 14 anni, con un complessivo impegno di spesa di 53.014 lire, da pagare in 3 rate annuali ai proprietari che incameravano anche il peculio dei servi. Di questo episodio la storiografia più o meno recente ha cercato la motivazione, puntigliosamente insistendo a ricercarne una che prevalesse sulle possibili altre. Il Vaccari l'ha interpretata come un provvedimento fiscale, perché i servi liberati erano obbligati ad iscriversi nei ruoli delle tasse di una comunità del contado. Ma però vi ha soprattutto visto una presa di posizione contro l'aristocrazia fondiaria, che veniva privata di una forza determinante nel sostegno della sua economia. Da allora si sono intrecciate su questo tema molte interpretazioni, tra cui quella di Luigi Simeoni, che ha negato che si trattasse di un provvedimento contro le grandi proprietà, perché l'emancipazione era stata concordata tra il comune e i proprietari, tanto più che in quel torno di tempo sembrava prevalere nel governo cittadino il ceto magnatizio. E l'altra interpretazione, quella di Luigi Dalpane, che ha interpretato la francazione dei servi bolognesi come l'esito della politica cittadina in rapporto al sistema di produzione delle campagne. Recentemente, senza citare per brevità altre interessanti e pregevoli interpretazioni, la storiografia sovietica vi ha visto la volontà dei grandi proprietari di venire in possesso di denaro liquido e al contempo di evitare l'esito delle campagne. Tali interpretazioni, a mio parere, non si contraddicono e non escludono che tutti questi scopi fossero ben presenti ai legislatori. Ancora una volta, tanto più ampio è lo spettro dei problemi affrontati, tanto più il provvedimento che li affronta è una soluzione politicamente valida. Se non a proposito del rapporto fra comune e magnati, punto da chiarire se si vuol comprendere se la liberazione di quasi 6.000 persone fu una mossa pro o contro la grande proprietà. Punto di partenza, credo sia quello di tenere presente la compresenza anche a Bologna nella prima metà del 200 dei due sistemi economici cui ho accennato, quello proprio dell'elemento popolare, cioè dei cambiatori, mercanti e imprenditori che dal 1228 avevano ottenuto la partecipazione al governo, e quello della grande proprietà terriera, che convenzionalmente si dice feudale, ma è una convenzione. Non si giunse ad uno scontro armato risolutore per il potere politico, ma anzi si attuò una forma di coesistenza nella quale potevano prevalere ora il ceto magnatistico, ora quello popolare, cosicché per un certo periodo si ebbe anche alternanza. Anche se i segni che sarebbe poi stata prevalente la parte popolare si possono cogliere in tutta una serie di disposizioni che riuscì a far approvare da interpretarsi come antimagnetistiche, quali furono per esempio le norme degli statuti delle società del popolo del 1248 che esclusero i magnati dall'anzianato, la drastica restrizione dei ranghi della nobiltà nel 1249 quando fu ordinato il censimento dei nobili sed exempti, oppure il divieto fatto ai nobili e agli uomini di Basnada, la cui condizione era quella servile e che sostenevano militarmente i magnati, di stabilirsi a Castelfranco recentemente fondato. Il fatto che il riscatto dei servi sia stato concordato con i proprietari, pur contenendo a mio parere un fondo antimagnatistico, credo che debba essere interpretato come il risultato della politica, per così dire, di compromesso che in quel momento veniva attuata a Bologna. Infatti, gli esiti della provisione Paradisus sono un evidente risultato di quel compromesso, perché l'amministrazione urbana guadagnava una larga fascia di contribuenti che obbligava a restare nel contado. La proprietà incamerava liquidi che in un periodo di sviluppo poderoso delle attività mercantili potevano eventualmente essere ben impiegati. D'altra parte sarebbe stato senza sbocchi e improduttivo per i proprietari opporvisi, perché il miglioramento della condizione sociale dei rustici era dettato dalla dialettica della produzione e la servitù era anacronistica nell'ormai prevalente economia di mercato, poiché il lavoratore era sempre più restio alle prestazioni d'opera sulla terra del proprietario e tendeva invece alla gestione diretta del fondo. È vero che i proprietari potevano effettivamente essere svantaggiati dalla perdita della forza lavoro dei servi, visto che essi potevano spostarsi nel contado, anche se era loro proibito inurbarsi, anzi venivano rispediti sui campi coloro che erano giunti in città negli ultimi 5 anni. Ma solo in teoria potevano verificarsi condizioni svantaggiose, perché nella pratica è difficile immaginare uno spostamento nel contado di 1048 famiglie di rustici per un totale di 5.855 persone. È più realistico ritenere che la grande maggioranza sarebbe poi rimasta sulle stesse terre che aveva sempre lavorato, anche se con un rapporto contrattuale diverso da quello della servitù. Mantenimento dello status demografico del contado, ampliamento dei ruoli dei contribuenti, miglioramento della condizione dei lavoratori delle campagne e della loro produttività. Questi furono gli esiti della francazione dei servi bolognesi. Un episodio di grande interesse per l'effetto anche psicologico ed emotivo che dovette produrre, senza peraltro ledere in maniera decisiva gli interessi dei proprietari e senza scontentarli troppo, ma pur tuttavia intaccando le strutture economiche che sostenevano il loro potere. Prima di trarre qualche rapida conclusione, perché ormai la pazienza dei miei ascoltatori sarà al limite, devo dire che avrei voluto tentare un'analisi dei rapporti di città-contado anche per le città che non hanno conseguito forme di autonomia politica, come quelle del Regno di Sicilia o dei giudicati sardi. Ma vi ho rinunciato, poiché in esse il controllo politico del governo centrale era tanto forte che non hanno potuto mai svolgere una politica di qualche genere in questo settore. Avrei dovuto eventualmente parlare di come i re normanni e svevi o i giudici sardi e Pisa e Genova hanno gestito i territori che non erano urbani, ma sarei uscita dal tema che mi è stato assegnato. Vorrei solamente sottolineare, senza pretendere inutili confronti, come per il periodo di cui ho prevalentemente parlato, cioè il XII e XIII secolo, in quelle regioni i governi non abbiano consentito né tollerato alcun mutamento nel sistema economico. ma come abbiano sempre sostenuto prevalentemente una gestione feudale dell'economia del territorio, anche se segni di attività imprenditoriali e mercantili nelle maggiori città si sono verificati, come è ben evidenziato dal fatto che nella stessa epoca in cui le autonomie cittadine del centro e del nord della penisola liberavano i servi, o quantomeno consentivano le affrancazioni private, in virtù di quei meccanismi economici che ho cercato di illustrare, al sud Federico II varava una legislazione precisa e fortemente coercitiva contro i servi fuggitivi, e in Sardegna la proprietà fondiaria controllava con tanta attenzione il suo patrimonio legato alla terra, patrimonio di uomini, donne e bambini, da non consentire mai depauperamenti di nessun genere. Uomini, donne e bambini che consideravano una promozione sociale degna di rischiare per essa le conseguenze di falsificazione di documenti, diventare non dei liberi, ma dei servi di grado meno basso, come è testimoniato da un processo del XII secolo. Tornando alle autonomie cittadine, poche parole quindi di conclusione ormai, ma sono proprio poche. Un contado sfruttato dalla città o con essa in costruttiva pacifica simbiosi? Io credo che nessuna di queste due ipotesi così manichee rifletta la realtà, anche se ritengo molto più probabile che quella realtà fosse più vicina allo sfruttamento che alla collaborazione. Si è sempre trattato di gestire un territorio la cui economia sostenesse quella urbana, incapace di essere autosufficiente, ma desiderosa di non dipendere da un altro Stato al fine di salvaguardare la propria autonomia. Dopo la conquista, i mezzi della gestione politica del territorio furono quelli dell'apparato burocratico dello Stato che si concretizzava in un'organizzazione amministrativa capillare che non consentiva smagliature, per l'esercizio della giurisdizione in generale e in particolare per l'esazione dell'imposta diretta. Ma i mezzi furono anche quelli più finemente politici dell'intervento sulla condizione sociale delle persone, sulla loro volontà di cambiare lavoro o residenza, non di rado applicando prescrizioni rigorose o facendo balenare allettamenti di promozione sociale a seconda che si trattasse di respingere o di attirare masse di rustici nell'attuazione della politica cittadina. Né si può negare che il gioco politico sia sempre stato condotto da coloro che detenevano il potere all'interno della città, mentre le popolazioni rurali non hanno potuto far sentire la loro volontà se non con la disobbedienza nei confronti dei signori quando fuggivano dalla terra o si ribellavano, o con l'invenzione di scappatoie per alleggerire gli oneri fiscali. Ma le amministrazioni cittadine furono sempre in grado di ricondurli rapidamente alla disciplina, cosa che invece non sempre fecero al ricostituirsi di qualche centro di potere locale, laico o ecclesiastico. Ma anche in quei casi non per incapacità militare, ma perché così dettavano i rapporti di forze all'interno del gruppo dirigente urbano. Se talvolta le città, consapevoli che solo sull'apporto finanziario che dal contado proveniva e sulla sua produttività poteva essere costruita la prosperità economica urbana, si trovarono costrette a concedere a certe comunità rurali le condizioni sociali e politiche della città, lo fecero per evitare conseguenze peggiori agli sviluppi della loro economia, non certo per un'umanitaria volontà di emancipazione sociale del contado. Questa è l'immagine che io ho dei rapporti città-contado e della loro evoluzione fino a tutto il XIII secolo. Su queste strutture urbane e rurali si sarebbero poi verificati ulteriori sviluppi in direzioni diverse che avrebbero portato successivamente nelle città il costituirsi delle signorie e nelle campagne un'ulteriore trasformazione dei rapporti fra proprietà e lavoratori, rapporti che si configurano in una, per così dire, rifeudalizzazione su basi diverse da quelle precedenti, ma soprattutto nella diffusione massiccia della mezzadria che avrebbe caratterizzato la storia delle nostre campagne per molti secoli ancora. La sua interpretazione di tutte le ragioni che possono aver portato a una liberazione come quella di Bologna mi sembra molto convincente, cioè mi sembra infinitamente superiore alla i monocausali. Però esiste una prova concreta che io non ne sono una per quella domanda, magari stupidissima, che i servi liberati sono diventati veramente dei pagatori di imposte? Traduce subito, professore. Die Frage ist nach ganz einfach, ob es feste, deutliche Quellen dafür gibt, dass freigelassene Bürger nach der Freilassung Steuern bezahlt haben. Dunque, sul sistema di imposizione diretta bolognese, io ho qualche competenza, essendomi occupata di questo argomento, e devo dire, conosco abbastanza bene, fortunatamente, le fonti per poter rispondere alla dottoressa Barone. Per l'imposizione sul contado, a quest'epoca, venivano redatti per ciascuna località degli estimi, e noi li abbiamo a Bologna per il 1235, gli estimi del contado, e per il 1245. Dopodiché restano purtroppo assenti per un tempo abbastanza prolungato. Quindi non posso dire, perché per deficienza di fonti, che se effettivamente li hanno pagati o non li hanno pagati. Però posso dire alcuni esiti ugualmente a questo proposito. Un esito è che, per esempio, dopo una cinquantina d'anni da questa deliberazione, da questa Lex Paradisus, sul cui nome poi potremmo anche fare forse qualche argomentare un momento, il Comune ha dovuto riprendere di nuovo questa disposizione, ampliandola, e perché questa prima era solamente relativa e ai servi, alle ancelle e agli uomini di masnada, e poi invece dopo l'amplia anche ad altri tipi di lavoratori. Però il significato della riproduzione del tipo di legge ci dice che in un qualche maniera si era ricaduti in forme servili, e questo deriva proprio dal fatto che da una parte c'era stato il fatto che non veniva concesso il peculio al servo, quindi il servo si trovava con ben poche possibilità di gestirsi direttamente, e d'altra parte quindi si era ricaduti senz'altro in forme servili. Questo da un punto di vista, quindi posso dire che probabilmente non so quanto avessero pagato, perché non c'è la fonte, e d'altra parte so che sono ricaduti molti nella servitù. Seconda cosa che posso dire è interpretare quella che è stata l'attività del Comune di Bologna dal punto di vista del controllo dell'imposta diretta. È stato di un rigore assolutamente incomparabile, non ha mai consentito e permesso sbagliature, questo non c'è dubbio, come del resto facevano poi anche le altre, perché senza quattrini non si va avanti. Quindi sono quasi certa che coloro che sono riusciti ad impiantare una loro azienda di qualche genere, se sono riusciti a comprarsi la terra, in questo caso pagavano le tasse; se evidentemente erano affittuari di qualcun altro o avevano altri, allora l'imposizione evidentemente aveva strade differenti. Grazie, perché nella storia ci sono stati tanti fenomeni di affrancamento che spesso però hanno alterato abbastanza poco la condizione reale di affrancare. Questo anche l'età moderna, per quello che mi è venuto in mente di chiedere se è successo lo stesso a voi. Che sia un successo relativo. Die gewünschten direkten Quellen für das Zahlen von Steuern durch Freigelassene sind in Bologna nicht vorhanden. Nun hat sich Frau Bocchi ausdrücklich und sehr entschieden mit den Steuern der Stadt Bologna beschäftigt und hat infolgedessen folgende Auskünfte gegeben. Es gibt Steuerlisten für den ganzen Contado, und zwar nach Gemeinden geordnet, aus den Jahren 1235 und 1245. Es gibt andererseits in der Zeit nach dem Gesetz Paradisus, dem Freilassungsgesetz von 1258, eine Reihe von Verordnungen, die auf dieses Gesetz zurückkommen, das heißt, es wieder aufgreifen und neu einzuschärfen versuchen, woraus geschlossen wird und zu schließen ist, dass eine Reihe von Freigelassenen, die ja ihr Eigentum, das sogenannte Peculium, bei der Freilassung ihren Herren überlassen mussten, zurückgefallen sind in Knechtschaft, was also den Intentionen der Stadt Bologna widersprach, diese rückfälligen, hörigen oder geknickten haben bestimmt keine Steuern bezahlt. Andererseits ist für Bologna klar, dass die Stadt mit äußerster Rigorosität Steuern eingezogen hat. Wenn es also einem der Freigelassenen gelungen sein sollte, und das müsste doch immerhin einigen gelungen sein, ein Stück Land zu erwerben, dann hat er bestimmt auch Steuern zahlen müssen. Frau Barone hat als Nachfrage dann gestellt, es gäbe im Lauf der Geschichte an vielen Stellen Freilassungen, die eigentlich nicht zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen des Freigelassenen geführt haben. Und Fräulein Bocchi hat nicht widersprochen. Rick. Ecco, e poi la prima o dopo? Forse Rick prima. E poi la signora presenti Marangò. Wenn diese Frage nicht direkt an das Sklavenproblem anschließt, würde mich interessieren, ob dies ja manchmal zu beobachten ist, der von Land vertriebene Adel, von dem Sie gesprochen haben, seinerseits vielleicht wieder in die Städte zurückgekehrt ist und hier versucht hat, nun die führenden Kreise zu infiltrieren. Man kann das ja manchmal in der deutschen Geschichte beobachten, dass hier eine Vermischung stattfindet und sozusagen auch durch die Hintertür oder auf anderen Wege wieder sich in den Besitz auch politischer Macht zu setzen, bereits vor dem Entstehen einer neuen Stadtverfassung. Für welche Zeit haben Sie Ihre Frage gestellt? Ja, in der Zeit der Conquista des 12. 13. Jahrhunderts. Lui desidera sapere se i nobili o magnati che hanno lasciato la città abbiano cercato di rientrare per impossessarsi di nuovo del governo o almeno di un certo influsso nelle cose cittadine dopo la... per il XII e XIII secolo. Credo che la risposta sia semplice. No, il problema è questo, che a quest'epoca non lasciano la città, anzi la conquistano la città i nobili del contado, la lasciano solamente più tardi, nella seconda metà del 200, quando viene fatta una legislazione antimagnatistica per cui sono respinti dal potere, sono respinti nelle campagne, nelle città autonome non lasciano la città a quest'epoca, lo lasciano in un momento successivo, in conseguenza della legislazione antimagnatistica e delle lotte fra i partiti che naturalmente sono, e per esempio a Bologna, adesso tanto perché continuiamo l'esempio bolognese che abbiamo, e dove naturalmente le cose accadono sempre più in grande che in qualsiasi altra parte, no? Lì si battevano sempre le grancasse, forse lo si battono ancora. Vengono cacciati tutti i Lambertazzi, che sono 6-7 mila persone, anche qui si va sempre a grandi numeri, ma questo accade, anzi forse 12.000, ecco appunto 12.000. Perché abbiamo gli elenchi degli espulsi, quindi ecco. non c'è da possibilità di sbagliare. Allora, questi sì, vengono cacciati appunto in seguito alle lotte cittadine, ma poi certo in parte rientrano, ma molto tempo dopo. È una situazione diversa da quella che lei propone, perché è il nobile si inserisce subito nella vita cittadina, all'epoca dell'autonomia, si inserisce e molte volte si dedica ad attività anche imprenditoriali, attività mercantili, e quindi si rigenera in un certo senso dal punto di vista economico, insomma. È una situazione differente, diversa. Also im 12. Jahrhundert geht der Adel nicht aus der Stadt, sondern in die Stadt hinein und bleibt dort, und zwar an führender Stelle wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Grundbesitzes, bis in die Mitte oder in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts. Dann wird durch die Anti-Adelsgesetzgebung der Adel aus der Stadt vertrieben und hat keine Möglichkeit zurückzukehren, nur einige kehren viel später zurück. Die Vertreibung bei Bologna etwa kann man auch in Ziffern fassen. Es gibt die Verzeichnisse der Vertriebenen und wenn ich es richtig verstanden habe, sind es 6.000, die also in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts aus der Stadt getrieben werden. Das ist die Geschichte, die wir uns so schwer vorstellen können, dass man in Italien und insbesondere in der städtischen Welt Italiens den Adel nicht für einen absoluten Wert ansieht, sondern dass es sogar dahin kommen kann, dass wie in Piacenza die unterlegenen Bürger in einem Bürgerkrieg zwangsweise in den Adelsstand versetzt werden, und man könnte auch sagen, strafweise in den Adelsstand versetzt Oberhaus. Werden, damit sie mehr Steuern zahlen müssen und weniger Anteil an der Stadtregierung haben. Detto soltanto che in quanto alla nobiltà c'è una certa differenza tra il mondo cittadino italiano e il mondo tedesco fino ad oggi. Per i tedeschi la nobiltà è una elite, è un valore assoluto, e invece per le città italiane è così che per esempio a Piacenza nella seconda metà del XIII secolo, dopo una guerra civile, la parte conscritta viene promossa nello stato di mandati, perché questa era una pena, dovevano pagare più tasse di prima e non potevano più partecipare al governo della città. Qualcosa per, chiedo scusa se vengo subito perché il professor Herz mi ha fatto venire in mente, poi anche d'altra parte molti nobili rinunciano allo stato di nobiltà e diventano in apparenza e diventano popolani come a Firenze, aspettando però il momento giusto per risorgere nobili. E i padri ricordano, io non so quale fonte, non è Giovanni Villani questo, ma penso Malaspini sia. I padri ricordano ai figli di non dimenticare mai chi fossero gli antenati propri, cioè che loro sono sono nobili, ma in apparenza adesso per poter continuare al governo della città, che è necessario essere popolani, si trasformano in popolani. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich noch nicht an der Reihe war und trotzdem etwas gesagt hat. Professor Elze hat mir dazu den Anschluss gegeben, nicht nur dieser Wert, dass die Popularen zu Adligen werden, um nicht an der Regierung teilnehmen zu können. Umgekehrt verzichten sie auch freiwillig in Florenz beispielsweise darauf, Adlige zu sein, werden Populare, um an der Regierung weiterhin teilnehmen zu können, aber eben nur dem Anschein nach, denn sie warten auf den Moment, in dem sie wieder Adlige sein können. In der Tat, die Quelle ist mir nicht ganz geläufig, ich glaube Malaspini, dort erinnert ein Vater seinen Sohn, dass er immer daran denken soll, wer seine Vorfahren seien. Also diese Tradition, dass sie in Wirklichkeit Magnaten sind, bleibt erhalten, aber sie betragen sich wie Popolare. No, il concetto è molto diverso, se posso aggiungere. Il concetto di nobiltà intanto è molto spesso una parola di comodo che noi oggi utilizziamo per indicare un certo strato sociale che vive soprattutto attraverso sulla grande proprietà terriera, che può essere una proprietà diretta, può essere anche un possesso gestito in qualche maniera, in un qualche modo, ha soprattutto questo tipo di indicazione, che poi naturalmente ha delle tradizioni nobiliari, non c'è dubbio, ma in generale è un termine che forse sarebbe molto meglio utilizzare con il termine di magnati, è molto più giusto io credo, perché già questo indica qualche cosa di più ampio di quanto possa implicare la parola nobiltà, ecco, che effettivamente in Germania e nel mondo tedesco ha un valore completamente diverso e più ristretto, diciamo così, di quanto noi usiamo dare al questo termine per l'età comunale. Ecco, quanto poi a questi aspetti sono estremamente interessanti, perché effettivamente l'inserimento nel mondo politico ed economico delle città, alcuni magnati lo hanno proprio trovato attraverso la rinuncia alla loro, anche se è un momento successivo forse a quello che io ho sì, trattato. E poi naturalmente che ritorna poi molto abbastanza presto, perché nei secoli successivi c'è un ritorno di questi ceti alla riconquista di posizioni politiche e di posizioni di potere molto, molto, molto forti, e quindi ecco che allora ribolle e ritorna tutto questo, tutte le tradizioni, la Laudatio Temporis Acti di cui abbiamo sentito parlare, Dante che parla degli antichi, insomma è una forma che possiamo appunto direi vedere abbastanza dappertutto, nelle città sempre dell'autonomia. Fräulein Bocchi möchte sagen, dass die Bezeichnung Adel oder Nobilitat wahrscheinlich besser aufgegeben werden sollte für die städtische Welt in Italien, dass man lieber von den Magnaten sprechen sollte, die kein Geburtsstand sind wie der Adel. Und bei den Magnaten tatsächlich sei es eben so, dass sie oft verzichtet hätten, wohl allerdings erst in der Zeit nach 1300, auf ihren Magnatenstand, das aber in der späteren Zeit, also bei der veränderten Stadtregierung durch Stadtherren etc., dann die Magnaten wieder in die alte Rolle einzutreten versucht haben, und zwar meist nicht mit Erfolg, denn dann gibt es wieder eine hierarchische Gliederung innerhalb der Stadt. C'era la signora Pesenti. Imposte dirette e imposte indirette, perché per esempio a Padova, da quanto mi risulta nelle letture della AID, erano più frequenti, cioè avevano più importanza le imposte indirette, in particolare la DASIA, cioè l'imposta personale più importante. E l'AID formata... Indiretta ha detto o diretta? Indiretta. Personale. La diretta è la personale, l'indiretta sono i dazi. E sui fiammiferi, sul sale, sui beni di consumo sono indiretti. Sì. Personale. Non solo personale, sono indiretti personali. Vabbè, dica pure. No, sì. C'è questa DASI allora che è diretta. Poi c'erano gli altri indiretti. E l'AID affronta il problema, no, il problema nato, l'AID cioè affronta il problema delle relazioni tra la città e la campagna. E dice che in ogni caso anche le imposte indirette, cioè i dazi, venivano a colpire maggiormente la campagna, perché coltivano la produzione, cioè coltivano consumi, cioè colpivano particolarmente i consumi della campagna. E quindi io volevo chiedere questo per chiedere una spiegazione del fatto che a Padova si trovano moltissimi contratti di prestito di denaro di cittadini rustici già nella prima metà del 500, prestiti o usure di piccole quantità di denaro. Allora volevo chiederle, questi prestiti o usure si trovano anche nelle altre città, e che motivazioni hanno? Die Frage ist nach den Steuern, nach einer Klärung der Frage der indirekten und direkten Steuern, stellt Frau Pesenti für Padua die Frage, wie zu erklären, also Heid, ihr Gewährsmann, sagt, dass auch die indirekten Steuern das Umland stärker getroffen hätten als die Stadt, und sie fragt in diesem Zusammenhang, ob wie in Padua auch in anderen Städten vorkomme, dass Bürger verhältnismäßig kleine Darlehen gegen hohe Zinsen an Bewohner des Contado geben, die offensichtlich dazu dienen sollten, Steuern bezahlen zu können, während in der Stadt solche Darlehen offenbar nicht vorkommen. Intanto, prima di tutto, è abbastanza noto che il rapporto fra imposta diretta e imposta indiretta è favorevole all'imposta indiretta. Cioè le finanze pubbliche delle dei comuni medievali sono, per grosso modo naturalmente, per il 70-75% derivanti dall'imposta indiretta, e per circa il 25-30% derivanti dall'imposta diretta. Poche parole per dire qual è il motivo di questo si tratta di che l'imposta indiretta colpisce i consumi, ed evidentemente si trattava di tassare maggiormente chi più consumava. Questo è il motivo per cui si punta soprattutto sull'imposta indiretta. Nella campagna naturalmente questo non può accadere, perché si tratta, per l'alto medioevo fino alle autonomie cittadine, di un'economia che è basata sulla sussistenza e quindi non ha in linea generale bisogno di consumare dei prodotti sui quali grava l'imposta indiretta. Allora la maniera, ma questo naturalmente non solamente per il medioevo, è un abbastanza diffuso anche in altri tempi, allora la maniera prelevare dai proprietari terrieri è quella di dare un'imposta diretta sul possesso, sulla proprietà. Quindi questo è il motivo per cui c'è un'imposta indiretta e un'imposta diretta. Quanto al problema dei prestiti, io non sono del tutto certa che si possa mettere in relazione al problema, all'imposizione. Il fatto che certamente che l'imposizione era un fortissimo peso per le comunità rurali, perché l'imposizione diretta era gestita dal comune urbano, uno di quegli aspetti organizzativi che avrei dovuto dire che non ho detto, era in generale gestita attraverso la suddivisione dell'imposta attraverso le varie comunità del contado, che a loro volta poi le distribuivano fra coloro che vi facevano capo. Ecco, e bisogna aggiungere anche che l'imposizione diretta non è come quella che noi oggi immaginiamo, cioè con scadenze annuali, fatta con regolarità, ma è un'imposta che è saltuaria, che è messa a seconda delle necessità dei singoli momenti. Tante volte si può imporre a una comunità un'imposta e non a un'altra. Si può, ecco, e allora naturalmente tutto questo può anche provocare delle necessità finanziarie da parte, io non escludo che ci siano, che questi prestiti siano stati anche dovuti alla necessità di pagare le tasse, anche se naturalmente le necessità di denaro sono da mettere in relazione anche ad tanti altri fattori, non solamente questo, perché ci sono dei problemi relativi al fatto che occorrono animali per il lavoro, che c'è bisogno di manodopera, che ci sono tanti motivi, insomma. E poi soprattutto, certo che secondo me le popolazioni rurali sono state veramente molto colpite da tutta l'attività politica cittadina, che faceva dei prelievi continuamente. Se i prestiti poi sono o non sono, probabilmente sono, io non voglio dire di no. Chiedo scusa, ma vorrei fare una piccola precisazione. Ma forse dovrà tradurre il professore. Faccio una piccola precisazione. Io sto ora studiando un comune di Castrum, non città, Castrum, che è Bassano, che è soggetto a Padova. Noi vediamo che il comune di Bassano riscuoteva per le collette 15.000 lire per quartiere, che vogliono dire 60.000 lire venete, e è una bella somma. Però il comune di Bassano fa dei prestiti per somme modestissime per pagare il tributo che deve dare a Padova. Perché avviene questo? Perché i tempi di riscossione dalla colletta dei quartieri non coincidono con i tempi di pagamento del tributo a Padova. E allora, in attesa di avere la riscossione delle imposte dirette, fanno questi mutui. C'è da aggiungere che questi mutui spesso sono fatti da cittadini non locali, non da usurai toscani, ma da cittadini della città dominante, la quale trova anche questo mezzo per sfruttare la campagna. L'interesse era sul mutuo del 25% annuo, che era un bel interesse. Questa cosa noi la constatiamo anche in un'altra area, che è Bologna. Imola, per pagare le tasse a Bologna, contrae continuamente mutui con cambiatori e banchieri bolognesi. È un altro mezzo di sfruttamento. È un controllo della finanza. Fräulein Bocchi hat zunächst darauf hingewiesen, dass die indirekten Steuern Verbrauchersteuern sind und dass solange das Land autark ist, es im Grunde genommen keine Verbrauchersteuern zahlt. Die Dinge, die er verbraucht, selber produziert, braucht keine Verbrauchsteuern zu zahlen. Infolgedessen sind die direkten Steuern das, was vor allen Dingen gegenüber dem Contado verlangt wird. Das Aufkommen zwischen, also der direkten Steuern beträgt in der Regel etwa 25-30% des Aufkommens der indirekten Steuern. Und die direkten Steuern sind nicht wie bei uns regelmäßig jährlich zu zahlen, sondern werden von Fall zu Fall auferlegt. Der Einzug erfolgt nach Landgemeinden und es kann durchaus vorkommen, dass eine Gemeinde stärker besteuert wird oder öfter besteuert wird als eine andere. Wegen der Darlehen meint sie, dass es durch dieser Kleindarlehen, dass es durchaus auch andere Gründe haben kann, als das Zahlen, als die Erfüllung der Steuerpflicht, dass beispielsweise der Kauf von Vieh oder ähnlichen Dingen Geld notwendig machte auf dem Land und dass das der Anlass sei. Fräulein Fasoli hat nun für zwei ganz konkrete Beispiele etwas, das modifiziert von Fräulein Bocchi. Das Castrum Bassano, das der Stadt Padua untersteht, hat in seinen vier Vierteln zusammen 60.000 Lire Steuern zu zahlen. Der Termin des Einzugs dieser Steuern bei den eigenen Leuten in Bassano ist ein anderer als die Fälligkeit der Zahlung an Padua. Und hier sind es teils Bürger von Bassano, teils aber auch Bürger von Padua, die durch Kleindarlehen die Zahlung den Bassanesen erlauben. Ähnlich sei es bei Imola. Imola hat Steuern an Bologna zu zahlen. Damit Steuern gezahlt werden können, machen die Imolesen Schulden bei Bolognesen. Die Zinsen in Bassano betragen 25% der Summe pro Jahr. Und ähnlich wird es in Imola sein. Das heißt, dass diese Form von Darlehen von Bürgern der herrschenden Stadt an Untertanen eine weitere Form der Ausbeutung dieser Untertanen darstellt. Sie haben in Ihrem Vortrag in den Mittelpunkt gestellt, die Versorgung der Stadt vom Land ausgehend. Sicher Versorgung mit Lebensmitteln und mit Rohstoffen, auch für die gewerbliche Produktion. Nun kenne ich von den oberdeutschen Städten her das Problem, dass auf dem Land auch eine gewaltige Konkurrenz entsteht, die zwar einerseits auf den Markt der Stadt liefert und von daher in den Handel kommt, Textilbereich insbesondere, auf der anderen Seite aber von der Stadt her, beziehungsweise von den Zünften insbesondere, abgewehrt werden soll, um nicht eine lästige Konkurrenz darzustellen. Und die Entwicklung, wenn ich das recht sehe, läuft darauf hinaus, dass die ländliche Produktion von fertigen Textilien eingeschränkt wird zugunsten einer Lieferung von Rohstoffen bzw. Kaltfertigwaren. Gibt es ein ähnliches Phänomen auch in den italienischen Städten in diesem Zusammenhang? Dottor Kiesling dice che nelle città del suo campo di ricerca c'è il problema che il contado non fa soltanto l'approvvigionamento della città con le materie prime in quanto all'alimentazione e per l'artigianato, ma che anche c'è l'artigianato in campagna che fa la concorrenza all'artigianato della città, e che gli artigiani, le arti della città cercano di limitare questa produzione e cercano di arrivare al punto che la Campania debba e possa soltanto, anche per l'artigianato, inviare in città le materie prime e non i prodotti definitivi che farebbero concorrenza all'artigianato della città. Sì, il problema è presente anche da noi, non è certamente una cosa che non esiste, però io, e ne sentiremo parlare domani mattina, senza dubbio, di questo argomento, è per questo che io non ne ho trattato. Però devo anche dire che io ho fatto delle scelte quando ho fatto questa relazione, perché evidentemente dovevo concentrare l'argomento su alcuni problemi, e ovviamente essendo in l'economia in generale, l'economia delle città italiane ancora prevalentemente un'economia basata sull'agricoltura, ho parlato di questo argomento conoscendo bene però che ci sono anche altri aspetti che non ho trattato, appunto perché rientrano nelle competenze di un altro relatore, ma non perché non ci siano. Anche nelle città italiane davano i mercanti italiani, per esempio, del lavoro a domicilio, per esempio, nelle campagne. Ci sono insomma certi aspetti, anche se forse non possiamo arrivare ai problemi di concorrenza come mi pare che abbia voluto dire il dottor Pinchini. Ecco, scusi, ti ho dimenticato. Frau Bocchi hat sich wissentlich beschränkt auf die Landwirtschaft, die also die wichtigste Produktion in Italien ist, zumal da Herr Greci morgen über das Handwerk in den Städten sprechen wird. Sie sagt, selbstverständlich gäbe es das Problem auch in Italien, wir werden morgen davon hören, und hat beiläufig noch gesagt, auch die Heimarbeit, die also von städtischen Meistern an Bewohner des Umlandes ausgegeben wird, existiere in Italien, sei ein Problem. Aber wir werden morgen davon mehr hören. E poi sempre in tema di imposte dirette. A Milano, a metà del XVI secolo, c'è una grossa diatriba per il semplice fatto che, secondo il nuovo mensuale, i cittadini. Secondo? Scusa, non ho capito. Secondo? Mensuale, il nuovo mensuale, della nuova applicazione mensuale. I cittadini di Milano sarebbero costretti per la prima volta, secondo loro, a pagare i tributi diretti. Per i possessi che loro posseggono in altre città, cioè nei territori di altre città, presso quella città. E loro dicono che hanno sempre pagato a Milano, che vogliono pagare a Milano, anche per i beni che sono luoghi fuori dalla giurisdizione. Nella conquista fiscale del contato, nel periodo derivato del XVI secolo, quindi vanno questi beni dei cittadini milanesi, come si comporta la città nei confronti dei beni di cittadini di altre città? Frage, ausgehend von Mailand Mitte 16. Jahrhundert, wie verhält sich die Stadt zu den Besitzungen von Bürgern anderer Städte in ihrem Contado in Bezug auf die direkten Steuern oder die Steuerpflicht? Il problema dei beni dei forestieri effettivamente compare, è un argomento che viene trattato in generale dalla legislazione fiscale, o perlomeno la legislazione ovviamente viene un po' più tardi, ma comunque dalle norme che vengono di volta in volta inventate per controllare questo grosso problema. E i beni dei forestieri sono effettivamente sottoposti all'imposizione diretta, anche se molto spesso con delle sfumature diverse, perché però in generale sono sottoposti. Certo però che l'argomento diventa di grandissimo interesse quando usciamo dal Medioevo ed entriamo nell'età moderna, perché è una, adesso io non voglio fare la storia della mia vita, la mia biografia, che sarebbe forse non interessante, ma devo dire che per capire alcune cose dell'età medievale ho dovuto mettere il naso nelle cose dell'età moderna per vedere quali sono state le soluzioni, e ho studiato un po' quel catasto Boncompagni, che è abbastanza noto, credo, in ambiente, penso, gli storici dell'economia dell'età moderna, se non altro per quei grossi lavori che ci sono stati fatti sopra. Ecco, e anche lì proprio c'è questa, si vede come si è andato sviluppando il rapporto diverso che c'è fra i possessori della terra in quanto la loro origine, non solo sociale, ma anche topografica. Ecco che allora il bene del forestiero è tassato il doppio rispetto al bene del borghese, ed è il quale bene del borghese è tassato il doppio rispetto al bene del cittadino e del fumante, cioè dell'abitante del contado. Ecco, quindi c'è una punizione nei confronti di questi beni fiscali. Capisco molto bene come i milanesi si siano quindi inviperiti su questo punto, perché appunto si premeva continuamente su coloro che naturalmente non avevano interesse in città, e quindi si poteva naturalmente premere quanto si voleva. Ecco, non so se questa è la risposta che... Antwort ist, dass Fräulein Bocchi, um die mittelalterlichen Erscheinungen zu verstehen, sich auch mit der frühen Neuzeit beschäftigt hat und dass also in einem bestimmten Fall, der viel behandelt wird, die Sache so aussieht, dass die Fremden, die also nicht in die Stadt und auch nicht auf das Land gehören, sondern woanders ihren Wohnsitz oder ihre Herkunft haben, doppelt so viel Steuern für ihr Gut zahlen müssen als die Bürger der Stadt. Die Bürger der Stadt müssen doppelt so viel Steuern zahlen als die Bewohner des Landes selbst. Und so ist also eine Verschiedenartigkeit der Steuerpflicht für die Leute verschiedener Herkunft durchaus festzustellen. Ich habe noch zwei Fragen, und zwar zu dem Verhältnis der Stadtregierung zu den Landbewohnern. Und zwar einen Punkt habe ich nicht ganz verstanden, und zwar Sie haben unterschieden zwischen dem, wenn verschiedene Parteien in der Stadt die Stadtregierung führen, dass sie einmal das Umland nach dem Feudalsystem betrachten, behandeln und einmal nach einem urkapitalistischen System in Anführungsstrichen. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir da jetzt konkret nichts Genaues drunter vorstellen. Das war die eine Sache. Anführungszeichen. Das ist meine Schuld. Ich habe es nicht gut genug wiedergegeben. Dann die andere Sache ist, nach diesem Freilassungsgesetz für Bologna, was geschieht mit den Freigelassenen? Bleiben die auf ihren Äckern oder ziehen die in die Stadt? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Entschuldigung, dass ich... In questo caso, anche due le cose sono colpa della mia... non buona riassunzione. La prima domanda, il prevalere del sistema feudale o del sistema mercantile, dipendente dalle costellazioni politiche nella città, come funzionava questo cambio o non cambio, eccetera. L'altra cosa, che cosa è successo con i manomessi di Bologna dopo il 1258, dove sono rimasti? Lei l'ha scritto e l'ha detto anche, però io non l'avevo riassunto. Sì, io ho qualche difficoltà a rispondere, perché il problema è piuttosto ampio, è molto ampio, quindi non so se rientra, se riesco a dire alcune cose su questo fatto. Certo che la presenza, tutto dipende da come si è formato l'autonomia nelle città, cioè come è avvenuto il prevalere all'interno delle città di un gruppo di persone che si sente di rappresentare tutti. Quindi queste cose, detto così in parole semplici, questo è un problema che rientra nella Costituzione stessa, nel formarsi stesso al di là delle condizioni giuridiche, adesso politicamente, dell'autonomia cittadina, che è un'autonomia cittadina che nasce dalla ricomposizione di queste lotte veramente feroci che ci sono state anche nel corso del secolo XI, fra appunto la città che ha gli elementi cittadini che gestiscono un tipo di economia nuova rispetto a quella che viene attuata e che viene sostenuta dai vassalli vescovili, da quella che noi diciamo, quella che noi diciamo economia feudale, c'è un momento in cui ci sono dei fortissimi attriti che derivano anche da tutto quelle problemi relativi alla lotta per le investiture, relativi a livello generale si risolvono e sono causati dalle lotte fra imperatori e papi, da tanti argomenti, ma che a livello locale hanno un risvolto appunto di carattere di lotte eminentemente di carattere sociale. Ora, da queste lotte non sono lotte che risolvono, diciamo così, tanto per dire un termine moderno, ma poi forse non so, rivoluzionario, cioè nel senso che o prevale uno e gli altri se ne vanno o prevale l'altro. No, c'è una ricomposizione e da lì e da questa ricomposizione delle lotte nasce il comune. Ecco allora che, essendo costituito da una parte di quegli elementi imprenditoriali che sono quelli che animano l'economia urbana, dall'altra dall'elemento che ha il possesso della terra, da questa ricomposizione ecco allora la coesistenza dei due sistemi economici e che a poco uno prevale ora uno, ora l'altro. E quindi questo è il tipo di coesistenza. Qual era l'altra domanda? Dove sono finiti nella città o dove? Ecco, no, in città a Bologna non potevano venire, e sono rimasti naturalmente in città, già ho risposto prima su questo punto, e sono stati, alcuni sono ricaduti nella servitù, e altri sono rimasti e naturalmente molti sono rimasti nelle campagne, ma è difficile seguire la storia di queste persone, perché è vero che nel 1257 è stato fatto questo Liber Paradisus, che non è solamente la Lex Paradisus, non è solamente la proposizione degli argomenti, cioè che si devono liberare, ma c'è anche tutto l'elenco e il nome dei proprietari e tutto l'elenco delle persone che vengono liberate, se sono maggiori, se sono minori di 14 anni o se sono adulti. E quindi sarebbe abbastanza facile, se avessimo le fonti si potrebbe fare questo controllo. Purtroppo le fonti, nonostante le fonti di Bologna, della storia di Bologna siano tanto numerose, e se dal momento che l'archivio comunale non ha mai subito incendi dal 1227-28 in poi, quindi abbiamo tante fonti, però purtroppo grazie al cielo qualcosa si è perduto, perché altrimenti non ci sono i cognomi, ma soprattutto non ci sono, è difficile seguirli, e poi manca insomma questa cosa, perciò è difficile saperlo, ma in città non ci potevano venire perché c'era il divieto di entrare, di venire in città. Gibt das zweite zuerst wieder. Diese Freigelassenen von Bologna konnten nicht in die Stadt, weil das ausdrücklich verboten war. Ja. Dieses Gesetz Paradisus enthält zwar die Namen aller der Eigentümer der nun freizulassen und auch sämtliche Namen der Freigelassenen, geordnet nach Alter, weil nämlich die unter 14-Jährigen billiger freigekauft wurden als die über 14-Jährigen. Aber es ist sehr schwer, die Schicksale dieser vielen Leute weiter zu verfolgen. Es fehlen die Nachnamen der Freigelassenen und es gibt also trotz der reichen Schätze des Bologneser Archivs nicht die Möglichkeit, sie also in ihren Schicksalen weiter zu verfolgen. In ihrem Vortrag hat Fräulein Bocchi allerdings auch gesagt, aller Wahrscheinlichkeit nach, da also der Contado von Bologna schließlich von begrenztem Umfang war, seien die meisten wohl da geblieben, denn für einen Ortswechsel von 6.000 Personen gleichzeitig waren einfach die Bedingungen nicht gegeben. Das habe ich vorhin nicht wiedergegeben. Auf die erste Frage ist die Antwort etwas schwieriger. Frau Bocchi weist darauf hin, dass bei den inneren Kämpfen des späten 11. Jahrhunderts, die sehr heftig waren, die Konstellation zwischen den Landbesitzern und damit Vertretern der feudalen Wirtschaft und den Vertretern der städtischen Wirtschaft, der neueren Wirtschaftsform, sehr heftig gewesen sind und überall zu Kompromissen geführt haben. Und je nach der Lage, jeweils in der Stadt, habe also die Sympathie für die eine oder die andere Wirtschaftsform vorgeherrscht. Im Wesentlichen doch wahrscheinlich so, in der einen Stadt mehr das eine, in der anderen Stadt mehr das andere, bis schließlich überall sich die neue Wirtschaftsform als die günstigere durchgesetzt hat. Ja, darf ich? Direkt dazu. Kann man nicht vielleicht sagen, dass diese Sklaven in Bologna, im Contado von Bologna, sozusagen nur noch ein archaischer Überrest waren, während in Mittel- und Oberitalien der Status der Sklaverei im Wesentlichen noch jedenfalls nicht mehr so lebendig war. Ich möchte diese Vermutung deshalb äußern, weil also nach den Untersuchungen von Verlinden ja bei dem Sklavenimport des 14. Jahrhunderts Ober- und Mittelitalien, das Festland, sich ja dadurch auszeichnet von Sizilien und Unteritalien, dass hier fast ausschließlich nur noch Frauen importiert werden als Sklavinnen, also nicht Männer, wie wir das also dann wissen für Sizilien, wo also eindeutig auch diese Sklaven importiert worden sind für die Agrarwirtschaft. Das ist eine wirkliche Frage. Ich weiß nicht genügend über diese Verhältnisse auf dem Lande Bescheid für das weitere 13. Jahrhundert. Ich würde das nur vermuten, dass eben sonst ja, die Wahrscheinlichkeit größer gewesen wäre, dass auch in diesem mittelitalienischen, oberitalienischen Festland, also in diesem Innenland, dann stärker männliche Sklaven importiert worden wären. L'esistenza di 6.000 schiavi a Bologna nella metà non liberi nella metà del 200 a Bologna fosse una specie di residuo arcaico in confronto alle altre città italiane dell'Italia centrale e settentrionale, perché secondo Ferlin dal 300 in poi, proprio in questa area, sono state importate soltanto o in prevalenza schiave domestiche di genere femminile, mentre nella Sicilia e nel regno di Napoli ci si trovano anche gli schiavi destinati ai lavori agrari. Questa è la domanda. Sì, è un po' problematico perché è sul concetto di servo e di schiavo che c'è forse qualche differenza. Ecco. Vorrei sapere dove si trovi una definizione. Ecco, sì, allora sì. Appunto. Neanche presso Ferlin. Ah, lo sì, infatti. Per lì non ci sono servo o schiavo, fanno una differenza netta. Ah. Che cosa? A Siena dicono sempre... Tra quelli importati e quelli per niente. Siena, nei documenti di Siena c'è sempre servo e anch'illa schiavo e sclava sono trattati in modo tale, sempre così, per Siena. Lo so. A Genova c'è una netta differenza che uno degli stati però, di grande importazione di servi non esistono a Genova. No. Sulla terra sì, cioè non a Genova stessa, ma nel contrario, diciamo così, servici sì. Ma c'è una differenza, naturalmente sarà difficile. Va bene, non dobbiamo discutere sui scambi. Va bene, allora Francesca. Dunque, quanto al residuato protostorico della servitù bolognese, no, non è affatto un episodio, è un generalizzato, perché attorno alle stesse epoche noi possiamo vedere come altre autonomie, altri comuni abbiano fatto la stessa attività altrove. Per esempio, affrancazioni collettive ne aveva già fatte prima di Bologna Vercelli, anche se io non ho citato l'episodio perché era meno articolato, perché era meno emblematico di una certa cosa. Le ha fatte Modena, le ha fatte Firenze. Però di questa situazione così diciamo eclatante come poteva essere una liberazione collettiva, che aveva anche il suo valore, io credo molto psicologico, aveva un valore di anche di, non so, non voglio dire non voglio dire di consenso o di ricerca di consenso, ma comunque doveva avere anche questo aspetto. E sono molto importanti quelle di Siena, quelle di Lucca, quelle di Pisa, di Reggio Emilia, di Parma, di Pistoia, di Perugia, che sono invece liberazioni che vengono indirettamente consentite attraverso la legislazione. Basti dire, per esempio, che questo problema della, come posso dire, della libertà dell'uomo, per esempio, della libertà dell'uomo è sentito non solamente nel preambolo così altisonante Bologna, pro libertà del pugnavite, eccetera, eccetera, ma anche proprio nel fatto che, per esempio, a Bologna hanno chissà quanto lavorato per trovare che questa legge cominci con la parola paradisus, perché significava evidentemente qualche cosa che proprio era legato al fatto dell'uomo servo, dell'uomo schiavo, di tutto questo. A Pisa, quando nella prima metà del 200 si fa una legislazione con la quale si dichiara che tutti gli abitanti della città e del suburbio non possono essere servi, che cosa hanno fatto? Hanno studiato in modo che si chiama bellissima Costituzione. Ecco, allora, voglio dire, c'è questa, intanto è vero che è nota come la Costituzione bellissima. Ecco come questo è il paradisus. Ecco, c'è questo punto di vista. Quanto poi alla servitù, alla schiavitù, ecco, questo è un argomento diverso. Io devo dire che sono d'accordo con il professor Elze che non arriveremo mai a sciogliere questo nodo, perlomeno se non ci soccorrono delle fonti che ancora non conosciamo. Ecco, questo è sempre un rinvenimento archeologico di questo tipo, può sempre accadere, anche se ho qualche sospetto che potrà accadere. E quindi si tratta qua di un aspetto estremamente complesso legato alla terra, e questo è il punto, che poi alcune di queste membri delle famiglie servili che si trovano sulla campagna vengano poi in città a fare il personale di servizio nella domus, nella casa signorile, nella casa del proprietario, ma questa è cosa che è durata fino alla mezzadria, cioè fino a 10 anni fa, insomma. Accadeva molto spesso che una delle donne della famiglia mezzadrile veniva in città a fare i servizi nella casa del padrone della terra, insomma, questo è una... Ma il fatto è però, sì, no, io vorrei dire questo, che la differenza fra lo schiavo e il servo è che il servo ha una famiglia regolare e lo schiavo è solo. Sì, sì, sì. Lì è il discorso che mi pare una grossa differenza, perché questi servi del Liber Paradisus sono famiglie costituite, insomma. Qui è diretto. Also, die Antwort auf die Frage, ob es sich um ein archaisches Relikt handelt bei der Existenz von über 5000 Knechten, die freigelassen werden in Bologna, ist mit Nein zu beantworten. Etwa zur gleichen Zeit erfolgen in vielen anderen italienischen Städten auch Freilassungen, nur in der Regel nicht so spektakulär wie in Bologna. In Pisa etwa, in Bologna heißt das Gesetz nach dem Anfangswort Paradisus, was also sehr viel sagt. Und in Pisa, wo die Sache etwas früher stattgefunden hat, geschieht es in der Form, dass eine Konstitution erlassen wird, die verbietet, dass Knechte in der Stadt Pisa und im Umland wohnen. Und diese Konstitution heißt die Constitutio Bellissima. Das heißt, auch da ist man sich des Wertes der Freiheit, die gewährt wird, offenbar durchaus klar gewesen. Hinsichtlich der Frage von Definition von Sklave und Knecht oder Sklavin und Magd ist Frau Bocchi so skeptisch wie ich. Ich will hinzufügen, dass ich im ganzen August versucht habe, einen Vortrag über Sklaverei im mittelalterlichen Italien zu schreiben, der sehr schwierig ist, eben wegen dieser Definition. Und sie weist aber darauf hin, dass bis in die allerjüngste Zeit es ziemlich selbstverständlich war, dass für den Dienst im Haus Töchter von Familien, die auf dem Land sitzen, im Eigentum des Herrn gehören, in das Haus in der Stadt zum Dienst kommen, also als Dienstmädchen in die Stadt kommen. Frau Fasoli hat versucht, und ich will gerne zugeben, dass das ein Weg ist, darauf hinzuweisen, dass ein wichtiger Unterschied zwischen den Knechten und den Sklaven, jedenfalls in Bezug auf Paradisus und Bologna, ist: Die Knechte sind Angehörige von Familien, das sind also Vater, Mutter und Kinder, während die Sklaven allein sind. muss sofort hinzufügen, es gibt in vielen Städten auch Sklavenfamilien, leider, obwohl das eigentlich nicht sein sollte, aber die Herren haben es eben zugelassen, wo also Sklave und Sklavin verheiratet sind und Kinder haben und wo man sich dann nur noch überlegt, sind die Kinder frei oder sind sie nicht frei und von frei verkaufen, was laut Definition möglich wäre, ist weit und breit keine Regel. Posso aggiungere ancora una cosa? Ma poi prima lui, ma adesso, no, non voglio io dirigere, ma se vi fosse possibile fare un intervento sulla mia relazione. Dunque no, volevo dire che a proposito della condizione servile, bisogna dire che ci sono effettivamente una condizione servile diversa da quella a cui aveva fatto cenno dell'Italia meridionale o anche della Sardegna, perché le nostre famiglie servili non risulta per esempio che ci sia una divisione dei figli per le opere, per il lavoro dei figli, quando i genitori sono uno proprietà di uno e uno proprietà dell'altro. Questo da noi forse ci sarà stato, no? Io non ho trovato fonti che me ne parlino. Ecco, se invece prendiamo la proprietà, prendiamo quella sarda, che io quella che forse conosco un po' di più, ecco, lì c'è una grossissima attenzione, addirittura i proprietari cominciano a dividersi il lavoro dei figli, dei figli dei servi, quando ancora le donne sono incinte e i bimbi non sono ancora nati. Ecco, e allora cominciano a dividersi uno a uno all'altro, e quindi è un problema, direi che di un certo, che riguarda proprio la condizione del servo, che è molto diversa dalla condizione dei nostri servi, che avevano un peculio, perché se quelli bolognesi, per esempio, i proprietari si impossessano del peculio, vuol dire che il servo il peculio ce l'aveva, è anche abbastanza formidabile. In molti altri luoghi invece il peculio viene lasciato al servo, il quale così ha la maniera di riscattare il fondo su cui abita, e naturalmente può avviare un'azienda di qualche genere, quindi è una condizione completamente differente, che io credo sia basata proprio sul diverso sistema economico. Una breve domanda, non so, forse deve rimanere senza risposta, dipende da come. Quelle 53.014 lire, dove sono andate? In città sono state, si può seguire, sono state investite in commerci, in arti, e più in generale, i proprietari di quei semi, i proprietari mondiali, a che gruppo socioprofessionale appartenevano? Die Frage, wohin ist das Geld für den Freikauf der Bologneser Öhringen gegangen, ist es in der Stadt? Dunque, prima di tutto il pagamento era rateale in 3 anni, quindi intanto si era diluito un poco e probabilmente si pensava di recuperare il denaro con imposizione diretta sui nuovi, probabilmente su queste. Ecco, quindi il rateale già viene un poco diminuito l'impegno. Ecco, quanto poi all'utilizzazione io non sono assolutamente in grado di dire, perché non abbiamo le fonti che ci permettano di seguire questo argomento, perché poi siamo alla metà del 200, quindi un tempo anche abbastanza alto per quello che riguarda questo tipo di fonti, di documentazione, che invece sarà molto più ampio per i secoli successivi. Io ho prospettato delle ipotesi che secondo me evidentemente se i proprietari cercavano questo denaro, una qualche maniera l'avranno usato, se non altro per, non so, anche per motivi futili o di lusso, come qualche volta accadeva. Questo io non lo so, potevano anche averlo investito, perché naturalmente una riconversione qualche volta di questi elementi c'è. Quanto alla loro appartenenza sociale, possiamo dire che quasi tutti appartengono, però molti, adesso non quasi tutti, molti, appartengono a quelle famiglie che qualche decennio più tardi compariranno nell'elenco dei magnati che la legislazione antimagnatistica bolognese prevede, fa un elenco di persone, non sono tante, di famiglie, che devono dare una fortissima cauzione se vogliono restare in città. Ma una cauzione formidabile, quindi è una grossa legislazione antimagnatistica, che addirittura è precedente a quella fiorentina, quindi è una grossa.